Sono le ore 17:31 di martedì 10 settembre 2024. Provo a, diciamo così, interrompere un'altra pausa e non so francamente quale potrà essere la scansione di queste registrazioni più avanti. Dipende sempre da tanti fattori che non riesco sempre a controllare, ma io credo che questa dovrebbe essere una caratteristica del podcasting. Diciamo che i vuoti di un podcast vengono giustamente colmati dai pieni di qualcun altro. Così almeno era alle origini, non c'erano palinsesti, non c'erano scadenze. E tra l'altro tutto questo è il pregio, appunto, di far dire alle persone le cose quando hanno qualcosa da dire, e non invece dover stare a rimuginare su cosa dire in assenza di idee. E io cerco sempre di fare unframing e quindi di cogliere spunti da quello che mi si para davanti agli occhi, quando non è intermediato da uno schermo, da un algoritmo, ma quando proprio semplicemente succede nel mondo fisico. Ecco, quello che sta succedendo a Roma in questi giorni è una generale ripresa delle cose che ricominciano a succedere, banalmente perché le persone stanno tutte tornando, come testimonia anche questo ingorgo nel quale mi trovo al ritorno dal lavoro, che è il tipico ingorgo, diciamo, della fase dell'ingorgo dell'inconsapevolezza, perché a Roma abbiamo anche gli ingorghi consapevoli, cioè le persone sanno che andranno a cacciarsi in un ingorgo la mattina quando vanno al lavoro in una mattina di dicembre, oppure quando vanno fuori porta per fare la gita il venerdì alle 6. Questo è perfettamente normale e il romano sa bene che incontrerà tutto questo, lo soppesa. Il romano sa anche tante altre cose: gli orari di inizio e di fine delle partite allo stadio olimpico, le uscite dalle scuole, la chiusura degli uffici pubblici e poi un po' più tardi le uscite dagli uffici privati, e in base a questa specie di calendario poi stabilisce quando muoversi, quando ha la possibilità di scegliere. E poi c'è sempre un'occhiata a Google Maps, al servizio di Waze, che ti dice il traffico in tempo reale, che ci salva dalle situazioni più impreviste e imprevedibili. Ma la fase dell'inconsapevolezza è questa, cioè quando tutti sono tornati dal mare ma le scuole ancora non hanno riaperto. E allora, se le scuole non hanno riaperto, le persone pensano che la città sia ancora in qualche modo percorribile, e non solo non lo è, perché ci sono più o meno altre 3 milioni di persone che la pensano nello stesso modo, ma soprattutto quel minimo di margine di prevedibilità che poi la scansione lavorativa reintroduce viene meno, causando ingorghi come quello in cui mi trovo anch'io in questo momento. Non che io sia la persona più consapevole, io sono inconsapevole come gli altri, sono giustamente punito dalla coda in cui mi ritrovo. Fatta questa premessa, per fortuna succedono anche cose interessanti. Per esempio, domenica scorsa al macro, nel contesto di una breve, diciamo, festival che si chiama Sonata, dove il macro in qualche modo anche nella gestione attuale sembra riprendere le spinte verso la partecipazione che avevano caratterizzato la gestione De Finis, la gestione 2018-2019. Insomma, c'è stata addirittura stavolta un'assemblea pubblica sulla democrazia dentro e fuori dalla scuola, alla quale hanno partecipato tanti, soprattutto insegnanti, ma insomma tante persone che avevano cose da dire, coordinata da Christian Raimo, che è sempre molto attivo su questo fronte. Mi ha chiesto di registrarla in audio, quindi da qualche parte su Archive, magari metterò anche il link, ci sono anche queste 2 ore di discussione per i più, diciamo così, sensibili ai temi della scuola. Magari metterò il link nella bibliografia, qui dipendo da lì. Ma l'altra cosa che un po' sto seguendo, anche se a distanza, non ci sono andato di persona, sto sentendo le registrazioni che si trovano su YouTube, è la festa del Fatto Quotidiano, perché ci sono stati alcuni dibattiti interessanti. Quello che stavo ascoltando prima di imbracciare questo microfono era il dibattito sul fascismo, si intitola "Il fascismo è tornato? Punto interrogativo". palco abitato da personaggi importanti, da Carlini a Montanari, da Flavia Perina a, insomma, altri giornalisti, polemisti, scrittori. E ho visto uno dei miei relatori preferiti, che è Tommaso Montanari, profondersi in una lunga, diciamo così, lista di comportamenti che denunciano l'assoluta vitalità del fenomeno fascista in tutte le sue manifestazioni. Una lista abbastanza disarticolata, dove ci sono appunto uscite folcloristiche, memoriali inaugurati a Predappio, a Graziani, se non sbaglio, addirittura non so dove, al maresciallo Graziani. Ecco, queste sono delle cose che mi erano un po' sfuggite dell'attualità recente, forse per una forma di crisi di rigetto, però poi ci sono anche cose molto più così, che entrano davvero nel quotidiano e che sanno di fascista, no? Da quel poco che so della politica che seguo, io ho la sensazione che ci siano due piani molto chiari da non confondere, no? Uno è il tentativo di rispondere alla domanda perché il partito, diciamo, più importante, che esprime anche la Premier, non so se lei vuole che io dica il Premier, non importa, la dico in entrambi i modi, il Premier, la Premier, come preferisce, però insomma questo partito, la questione è se questo partito, come mai questo partito non riesca a definirsi antifascista, no? È come se ci fosse una consegna molto chiara, va bene tutto, scriviamo anche delle lettere di scuse, come ogni tanto fa il Premier Meloni, ecco, mi è uscito il Premier al maschile, visto che alla fine ha vinto lei, però insomma a voce, a parole, non si sente mai questa parola, appunto, antifascista. E questa, la risposta a questa domanda, secondo me, ha molto a che fare proprio con la base elettorale. C'è una cosa su cui non dobbiamo nasconderci: io sono convinto che molte persone, se Fratelli Italia un bel giorno dicesse ok, siamo antifascisti, smetterebbe di votare Fratelli d'Italia, e non sono pochi, non sono pochi esaltati, sono la maggioranza delle persone che quando sentono questa parola antifascista si immaginano di essere trasportati in un centro sociale, non pensano a chi ha liberato l'Italia, non pensano ai partigiani, non pensano alla democrazia, no, pensano di trovarsi in un posto con i bonghisti, dove si parla di strane identità di genere, eccetera, eccetera. È questo l'eco della parola antifascista, perché le persone non sanno cosa vuol dire antifascista, non sanno, per esempio, che la Costituzione che regola tutte le leggi del nostro paese è forse il testo più antifascista, autenticamente antifascista, prodotto nel nostro paese, e vede solo il lato, diciamo, macchiettistico, mi verrebbe da dire, che è esattamente quello desiderato dalla destra. Questo è il grande successo della destra: aver derubricato questo termine a qualcosa che non è più istituzionale, ma è viene venduto come un concetto estremo di cui avere paura. Ci sono persone anche a me molto vicine, diciamo della generazione precedente, che quando sento un antifascista pensano a qualcuno con i capelli rasta che si fa una canna, suona un bongo in un parco e probabilmente è anche un po' promiscuo come atteggiamenti, scelte, identità, eccetera, eccetera. Oh. E questo è il primo problema, che però viene poi confuso col tema di quanto sono veramente fascisti questi signori al governo. Ecco, io terrei invece la discussione su due piani, perché il primo è un tema elettorale, cioè lo voglio dire chiaramente, un tema di consenso. Non dimentichiamo che anche se il fascismo ha espresso uno stato totalitario per almeno una decina d'anni, diciamo dal 25 al 35, il fascismo aveva il consenso della maggioranza del paese, della maggioranza degli italiani, e ce lo aveva senza doverselo vedere suffragato e confermato dalle urne. Ecco, quella base di consenso è qualcosa che io ritrovo oggi. Se devo definire l'Italia un paese fascista, lo ritrovo non tanto nelle scelte più o meno folcloristiche o più o meno gravi di chi ci governa, lo vedo proprio nei comportamenti delle persone. Io sono convinto che ci sono almeno una ventina di milioni di persone che sono quantomeno sensibili ad alcuni dei temi che oggi in senso lato potremmo definire temi fascisti. Questa come introduzione, e poi però veniamo agli atti concreti di questo governo, no? Che non riguardano il come ci si definisce, ma cosa veramente si fa. Io non vedo in questo governo un movimento vitalista e antiborghese, io vedo un governo pronto ad appiattirsi completamente a 90 gradi rispetto a qualsiasi dimensione affaristica, privatistica, capitalista, nel senso più deteriore del termine. Questa è la, personalmente, è la cosa che mi preoccupa di più, e non capisco perché ancora si agiti lo spettro dei sabati col salto alla cavallina e il salto nel cerchio di fuoco. Non è questo ciò di cui dobbiamo avere paura, non smetterò mai di ripeterlo.